Wolf Trips, i viaggi del lupo. Iniziamo una nuova puntata di Wolf Trips. Oggi è il 19 ottobre, non me lo ricordavo nemmeno più. Buonasera. Buonasera Tony, buonasera Cri, che si sta smaneggiando lì con il microfono. Ho messo i tacchi stasera. Buonasera Daniele. Buonasera amici di Wolf Trips. Dai, che sono le ultime giornate di rodaggio. Siamo sulla rampa di lancio. E salutiamo anche Fabio, che qua che ci ha appollaiato qua. E salutiamo Deborah. Poi tra l'altro tra pochi minuti dovrebbe anche partire la diretta live su Facebook, condivisa già sulla nostra pagina Facebook di Wolf Trips. Adesso condividerò. Sì, perché non partirà subito, tra qualche minuto. Abbiamo voluto fare un po' di questa suspense così. Sì, almeno così non si vedono. Bravissimi, almeno uno non gli viene subito i un colpo. I tecnicismi non si vedono all'inizio. Ma io so che hai dimenticato il tuo taccuino. È vero, però devo dire la verità, sono connesso telepaticamente con il taccuino, quindi avrò tutte le informazioni che mi come servono. Fa il taccuino? Okay. Cioè. No, non mi ricordo. Vabbè. Allora, dovrei fare un po' di saluti un po' strani perché in inglese 29 persone ci hanno iniziato a seguire sulla pagina di Wolf Trips. Li salutiamo, però salutiamo tutti, non uno come, uno. Come dire, Regina Lira, Maria Cerrato, gli altri sono tutti nomi. Quello è bello, Zaishan, non so quale sia il cognome dei tre. Vabbè, noi li salutiamo lo stesso, però... Come si dice buonasera? Good evening. Salutiamo anche Katia, che non è riuscita a venire perché è tornata tardi, però ci sta seguendo da... Ciao Katia. Dall'internet. In teoria dovrebbe seguirci anche un Alessandro De Benedictis, non lo so, vediamo se... Dopo vediamo se ci sta ascoltando. Iniziamo a salutarlo. Va bene, quindi la settimana è stata bella tosta, non so per voi. Sì, decisamente. Come dicevo prima, è stata la settimana di imbiancature a casa, quindi un po' di... Non voglio sapere come. Tu, Tony. Pare di grande pennello. Cioè, ragazzi, non partiamo così. Sono le 8 e 8, siamo sicuri pennelli di partire cinghiale. Così? Sì, vabbè. No, vabbè. Ma infatti ho pensato una puntata, diciamo, oggi non abbiamo interviste, però abbiamo sempre i nostri soliti viaggi nella musica, quindi ci sarà una puntata all'inizio un po' soft, perché mi devo un attimo riprendere, devo dire la verità. Poi la seconda ora, in realtà, ci sarà un po' più di spinta musicale. Allora, andiamo sempre... Ormai ci sono, diciamo, una lista di etichette base, ecco, che stiamo ascoltando spesso. Anche se devo dirti la verità che poi nelle prossime puntate cambieranno parecchio. E andiamo ad ascoltare un brano sempre della Dust That Walks Kingdom, che abbiamo scoperto un po' in questi giorni. E loro sono i Groove Cereal con il brano A Cold Autumn Night, che mangiano. Secondo me ci sta proprio bene con la giornata di oggi. Ancora abbastanza. Dimmi. Il cereal al cioccolato? Non lo so, dovremmo chiederlo. Quelli che si mangia. Vabbè, andiamo ad ascoltarcelo per ora. We'll be right back. L'avevo detto che iniziavamo soft. Beh sì, direi proprio, mi ha levato la parola inglese di bocca. Anch'io soft, volevo dire un inizio soft. Hi Gaia, hi girls. Ecco, ecco. Mi stava già rubando le cuffie. Intanto volevo salutare qua. Diego che è arrivato, no? Ciao, che mi ha lanciato una sfida, no? Sul numero di persone che ci seguono su Facebook. E devo dirti la verità, io non ho fatto nulla. E sono arrivati tutti questi personaggi, stavamo parlando prima, Mohamed Imran o come lo interpreti? Quello lì in realtà è un kanji giapponese che io dovrei sapere, cioè, una volta lo sapevo. Male. Un kanji? Sì, un kanji, sì, quello kanji. Che abbaia. Beh, se era in Cina non abbaiava più. Ecco, sapevo io che le battute si sprecavano. Diego, aiutaci tu per piacere. Vedi, una volta... ospite! Una volta era un programma meglio. Va bene, continuiamo con un po' di musica, va, così almeno ci assestiamo un attimo. Dove andiamo adesso? No, allora, sempre... ormai c'ho il mio schemino, diciamo, che, ripeto, rivoluzionerò un po', perché non è che possiamo fare sempre tutte le puntate uguali. Sempre della Dusted Walks, andiamo ad ascoltare un altro brano, sempre di Proletar, che era il... R maiuscola alla fine. Sì, Proletar, anche... Boh, non so. E anche qua un brano però un po' tranquillino. Beh, già il nome, dici sì, tu. Sì, sì, sì. Vai, lancia un po' il pezzo, va. Allora, il titolo è Valentine's Day. Valentine's Day. Siamo un po' fuori. Sì, ho messo la S. No, beh, oddio, siamo già più verso San Valentino. Siamo più vicini al prossimo San Valentino che allo scorso, quello è vero. Quello è novembre. Vabbè, ok, quello sì. E il brano è di Proletar. Andiamo a ascoltarcelo e poi dopo vediamo di accelerare un po' il beat, va? Che ci vuole. Tony, ricorda da dove ci possono ascoltare. Allora, attenzione, su oggi, Facebook, oggi vi interrogo. Allora, su Facebook ci possono solo vedere attraverso la webcam. E ricorda che non possono ascoltare la musica, perché ogni puntata salta fuori questa storia. Possono ascoltare le nostre belle voci, vedere le nostre belle facce. Sì. Allora, per ascoltarci ci sono due modi. Allora, sì, o scaricando l'app che qualcuno qua davanti ha creato, ma solo su Google Play. Google. È un personaggio di... è l'evoluzione di Google. Sul Play Store di Google, ok? Oppure si va sul sito e in streaming tranquillamente ci ascoltate in tutto il mondo. Va bene, va bene. Intanto e sotto... per scriverci? Ah, c'è il WhatsApp, è vero. Dai. Chi se lo ricorda? 338-222-8983. Eccolo qua. Intanto in sottofondo abbiamo ancora il brano di Proletar e continuiamo a ascoltare sempre un po' di musica. Questa mi faceva notare Fabio che c'è la voce al contrario, effettivamente, se ci fai caso. C'è tutto il disco al contrario, è una roba un po' malata. È per quello che lui ce l'ha R in fondo, perché anche lui si legge al contrario. Allora dovrebbe essere Relete Pro. Che ne so, potrebbe essere. Rete Lorp. E intanto tu avevi alzato la mano per dire sì, che ci possono anche scrivere sul programma di messaggistica di Facebook. Sul su programma Messenger. Di messaggistica. Salutiamo il nostro grande capolello. Messenger. Ciao Nello! Possono inviarci messaggi. Nello, vabbè, ho sbagliato la lettera. Va bene. Salve Nello! Andiamo ad ascoltare il prossimo brano, sempre brano del 2013, sempre da questa etichetta Dusted Wax Kingdom, e loro sono Tab e Anitech. For me, it's just a game. in sottofondo abbiamo il brano di Cali con Stack. Abbiamo cambiato etichetta. Sì, molto più tradizionale questo come beat, direi. Sì, sì, sì, questo sì. Torniamo sulle cose un po' più standard, mettiamola così. Ma è molto bello. Ha una voce molto bellina. Sì, sì. Il brano è del 2012, quindi non è proprio nuovissimo. Speriamo che non gli si scarica la batteria del taccuino. Nel caso io avrei anche da dargli una mano in quel caso. Ah, ok. Hai già tutto in memoria te. No, c'ho il... Ha un pugno nel... Sento, Fabio! Intanto è successo un po' un casino e niente, vabbè. È lavoro extra per te dopo. Sì, infatti, devo sempre mettermi a lavorare di più. Va bene, dai. Non tu, quello che c'è dietro la porta, non ti preoccupare, non ce l'ho con te. Vabbè, abbiamo capito che è arrivato l'altro Fabio della serata. Adesso entrerà, non lo vedo. Sì. Lì dietro alla porta. Entrerà. Sta facendo un po' il fantasma, cioè si vede il suo spirito, vediamo. Il fantasma di Radio Lupo, mettiamola così. Sto parlando per Halloween. Continuiamo con un po' di musica, andiamo ad ascoltare Silent Panther con il brano Cookies. Cookies. Cookies. Ah, si mangia. Sì, effettivamente, a quest'ora un po' di fame cookies mi sta venendo. Etichette... No, a me è già venuta, non ti preoccupare. Siamo due. Etichette Block Sonic, il brano è del 2018, quindi sarà un po' di pop nuovo. Nuovo. Delle hits del futuro. Hey Lark, what's up? You know we gotta do a round two on them, right? Are we going for the KO? Can I? Welcome to the lost act where they never cross back. Raw rap ball, snap on them like a ball cap. Fall back, running head on and get your skull cracked. Write my music, this is what you call that. A soundtrack, moving everything you see around. Keep the world spinning every time they put a needle down. They need a sound, game injury, they kneeing down. Unique is now depleted, I believe it that they need it now. I'm freaking out at the beacon, loneliness seeming crowded. To get in touch with my inner self is a breeding ground of grieving. Now we're defeated, hours of being down. I got nothing in the end but a bunch of friends. Busters in my circumference, itching to humble them. So to really call them friends got me wondering. It's cumbersome amidst the jungle with this vivid tunnel vision. They say my train of thought might have laid them off. Word to the wordsmiths, I gotta have a word with. What happened to a verse when every word was perfect with purpose? Mike Vandal, who that perp is? Let me paint a portrait, live and proportioned. Size them up, cut side, you supplied the cut. Might erupt everything that we might as touch. Don't be minding us, gold mining from the mind above. Minus us, MCs never knew what time it was. You kinda bugging, we rhyme beloved, just sign and cut it. A check that is, this is how we does it. Supernatural crew, you have to recoup the battle. They retired or tired, I'm trying to loot my travels. Winning off the beginning, don't tip the iceberg. Cause if you fell off, I ain't got no nice words. Titanic with my vanishing tide planets. Can't hack this, I'm Galactus. Witness the awakening, madmen making them. Wanna migrate to clear space like an atrium. Birds been aping them, jars been scraping them. So I figure, there's nothing I haven't ate from them. Skating when I fly by, I should wait for them. Take your time, dog. I'm the rhyme god, so if you prefer lies, you ain't hear from a breath of mine. This mirror match make them recognize. Let me testify, feel this a test of my quest. So yes, I guess that is best I rhyme. Bets align, money on, I'm no one offing us. Got a buzz, gonna keep dropping till my coffin does. I'm fresh up off the plug, laying still lifeless. Staring at the ceiling, it's a real crisis. 187 on a hill night, and when the sun ain't heaven, nigga, real righteous. I mean, I don't know what to say. We don't play. You are close to this mic right now. One, two. ecco, si sono tornati old school. Tra l'altro è partita, diciamo, tra un pezzo e l'altro, un altro brano che era di Kin Luck Lost Act. È tutto un impappinamento di parole. Cosa c'è? Intanto salutiamo Fabio che è arrivato al microfono, intanto che state maneggiando lì, non so cosa state buonasera facendo. Buonasera a tutti quanti. Come è andata? No, perché mi sento un po' basso per quello, ma mi sa che è la mia cuffia. Sì, ma buttale via con le ma cuffie. Ma sì, andiamo a braccio, schifo, come si dice, no? Buttale via. Adesso magari dalle prossime etichette ci facciamo fornire anche delle bellissime cuffie, non lo so, io lancio questa richiesta. Avviso, io ho la testa grossa, quindi voglio la taglia extra large. Ecco, appunto. Io invece mi farei offrire del cibo, eh. Vabbè, va bene, anche del cibo è anche ben accetto. No? Visto la gente che ci segue, arriverà da tutto il mondo. Sì, sì, un po' di sushi, sashimi, cose così. Sushi a sashimi. Sì, sushi. Vabbè, ma che cosa state parlando stasera? Del nulla misto con niente. Ah bene, i miei argomenti migliori. Tu è lì che ti stavi lanciando a dire qualcosa. No, che in realtà, cioè, io eviterei di continuare di parlare di cibo, perché abbiamo ancora un'ora e mezza in cui non possiamo assaggiare nulla, almeno. Quindi parliamo di altre cose. Ma io mi ricordo che Fabio portava da mangiare. Aveva detto che portava una pizza. Ma non sono passato da casa, quindi sono venuto direttamente qua. E però vedi le scuse. Si le sente scuse. Rumore di unghie sugli specchi, che fa più arrampicamento speculare. Devo essere onesto anch'io, è stato la settimana del mio compleanno, non ho portato nulla. È vero. Aia, questa è peggio. Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai Stasera però no, è un non è un tablet. Ah, ok. Stasera, come vedi, in realtà manca il taccuino consegnato tutte le cose. Stasera è in connessione con virtuale, mettiamola così. Un taccuino remoto. Taccuino remoto, bravissimo. Bravissimi. Va bene, dai, io direi che... Ma ascolta, che cosa ci ascoltiamo adesso di bello? Perché io prima la canzone non l'ho sentita perché sono entrato, quindi mi sono perso il primo pezzo di stasera. No, allora, stasera faremo... Perché siamo già mezz'ora. Scusate. Diciamo che stasera faremo una puntata, una prima ora abbastanza soft, la seconda ora un po' più... Strong. Strong. E, no, adesso facciamo che lanciamo un po' di pubblicità e ci prendiamo un attimo di pausa. Che... Bravo. Si fa caldo. Sembra di fare una maratona. Ma questo non ha fatto la DJ Ten. Ah, è vero, poi ci racconti. Conti. We'll be right back. Questi erano i Voodoo Tapes, che avremo tra presto ospiti. Io spero di portarli anche qua, mi dispiacerebbe. Ritorniamo all'etichetta di Avellino, no? Yes, sì. Yes. Volevo però dire il titolo, perché The Long March of the Black Chickens. La lunga marcia dei polli neri. Esatto. Bravissimo. Cioè, che bello è, ve li immaginate questi polli neri? Ma loro non so, sì, fanno un ambiente sempre un po' industriale, che se la camminano allegramente. Non è che magari è una tipo di galletto americano, non so. No, magari c'è il galletto nero, che ne so, il pollo nero. È tipo che ne so, la padovana. L'americana, no? L'americanella. E dopo faremo una ricerca su Facebook e vi faremo sapere Black allora. Chips. Comunque sì, loro utilizzano sempre queste metafore tra animali, cose. Comunque il genere dub, l'etichetta, dicevi bene, che era di Avellino, era la Quiet Bump. Okay, che abbiamo sentito settimana scorsa. Salutiamo. Okay. Salutiamo. Carmine? Carmelo? Sì, Carmine. Carmine, non mi ricordo. Sì, no, Carmine. E continuiamo sempre con loro, e il prossimo gruppo è Black Era, e loro sono del 2010, fanno trip hop, e mi hanno stupito perché hanno proprio una formazione molto variegata, probabilmente soprattutto dal sud Italia, devo dirti la verità. È un collettivo, produce molta musica, soprattutto con i Quiet Bump, ma anche con altre etichette, anche più famose e anche, diciamo, nei canali più ufficiali, stile Beatport, giusto per dirtela. Ok, si potrebbero anche in futuro ascoltare? Probabilmente sì. Il brano, comunque, sono brani, questi che passiamo sono brani abbastanza vecchi, non sono nuovissimi. E no, ti dicevo, la cosa che mi stupisce è che sono veramente tutti provenienti dal sud, ma sentirai la voce della cantante, che secondo me non ci azzecca niente col sud ed è molto molto bella. Va bene, andiamo ad ascoltarlo. Black Era con Glow. Yeah. Mi dispiaceva interrompere la cantante di questo stupenda, brano. Stupenda, veramente. No, davvero, molto, molto bella la voce, anche le sonorità. No, tu che dici? Sì, no, io tanto mi sono già fatto ipnotizzare di nuovo da questa base che mi fa impazzire, quindi... Questa sotto che c'è adesso? Sì, sì, sì, no, io questa qua la adoro. Perché dovete sapere che quest'anno mi sono scimmiato nella ricerca delle basi. No, delle basi molto soft, proprio da... infatti sono anche un po' caratteristiche, penso che ci accompagneranno per tutto l'anno... l'anno no accademico come si può dire l'anno radiofonico la stagione radiofonica ma ti dirò a proposito di basi giustamente. Vai. Mi sono messo questa settimana a preparare quelle che saranno le basi del mio programma, sì, no? Che ricordiamo quando sarà, dovrebbe essere se tutto va bene il 7 novembre secondo me. Il mercoledì dalle 19 alle 20, anche perché farlo iniziare l'1 novembre, esatto, non era il massimo, il massimo. Neanche anche il 2 che fosse anche peggio, anche peggio. L'ho estratta da un videogioco per la PlayStation 2 il cui nome è Katamari Damacy, che se non lo conoscete dovete giocarci perché è un gioco folle. Sì. Cioè voi siete un piccolo principino con la testa a forma di caramella che spinge una palla che assorbe gli oggetti più piccoli di se stessa e si gonfia. Sembra una cavolata ma è splendido perché sì, ha la colonna sonora. Sono quelle cose che ti rimbombiscono secondo me. Ha una colonna sonora spettacolare. Volevo estrapolarne un pezzo ma sono dovuto andare al millesimo perché sennò non mi si creava il loop che volevo io. Quindi... Ok, fatto. Se potete ascoltare magari qualcosa anche qua. Vabbè, a parte che diciamo non è tanto... Beh no, ma sono un po'... Cioè, ah sì, sono troppo... cioè, sì, troppo sono... videogioco. Eh sì, fanno proprio colonna sonora da videogioco. Sì, quindi... sì, penso che magari proprio delle belle musiche che... Beh, non è che dispiace. Beh, ce ne sono, perché ne ho trovato un sacco. Come si chiama quel gruppo lì che faceva... Che ha il nome tipo la palla di Ken... Gli Hadouken, grandissimi Hadouken. Vabbè, dai, facciamo un po' di saluti, visto che ci stanno... Allora, prima di tutto devo dire che abbiamo perso un po' di formazione del... Se ci stanno guardando da internet allora... abbiamo perso un po' di formazione, ma facciamo comunque i saluti, va. Allora, devo salutare Dennis, che è un mio amico. Sì. Il mio amico Mimmo, che mi dice che ma la musica non si sente in diretta. Ammo. Mimmo, devi andare su internet o scaricare l'applicazione di Radio Lupo. E da lì ascolti la musica, se no su Facebook puoi sentire solo le nostre cavolate. Ecco. Ok, ok. E il nostro amico Fabrizio Dome, che ci saluta, il Valtorta. E poi Gianmarco dei Dumat, che regista. Sì, no, ci stanno ascoltando un po' di persone. Devo salutare Katia, che sta seguendo Instagram e ha anche fatto un sondaggio su Instagram. Quanto siamo belli? Sì, quanto siamo belli, infatti il sondaggio è stato censurato. Niente. No, perché tutti dicevano 100, quindi nel senso il numero di commenti positivi è andato in ha fatto andare in overflow il sistema di Instagram per quello. Pensavo che la quota pensione, scusa. Vabbè, comunque a me continua a venire fame, quindi direi che cambiamo etichetta. A proposito, non dobbiamo parlare di Anduja. Ma ne parliamo dopo. Ok. Cambiamo etichetta, andiamo alla Monofonicos, che è un'etichetta, se non erro, della Spagna. E il genere, spostiamoci un po' sul musica un po' più auseggiante. E dicevo che mi sta venendo un po' di fame perché comunque il titolo della canzone è Filet Mignon, quindi... No, vabbè. Cioè, lui... vuol dire piccola fetta, no? Sì, vabbè, però filet mignon, è barese. Vabbè, andiamo a ascoltare il brano di Bobby Marlene, che abbiamo già ascoltato e vabbè, niente, andiamo a rilassarci. Facciamoci un po'. Facciamoci sto filet. done it. I'm feeling young. I'm nice and young. I'm number one. Rieccoci. Ah, siete tornati, siamo dal tornati, fumante. Sì, già. Sì, infatti si sente uno, proprio il profumo della sizza. Brutto profumo di filet mignon. Ah, giusto, giusto. Che abbiamo, che stavo dicendo che stiamo ascoltando sottofondo questo brano che si chiama Filet Mignon. Non ti fa venire un po' di fame? No, però mi faceva ballare. Va bene, non va so bene. Se avete visto, ero lì a fare tipo la disco anni 70. Io c'ho già fame. Tra l'altro, volevo ricordare che comunque su Facebook la musica non si sente. Non ci possiamo se fare niente. Ci tagliano subito. Sì, ma non dobbiamo dirlo. Scrivilo. Sì, sì. Scrivilo, sì, perché sì, se sì, no, adesso lo scriverò. Se non ci sentono, non ci sentono. Diciamo che vabbè. Però devo dirti la verità: se seguite la pagina di Wolf Trips ovunque, praticamente, potete ascoltare tutti i podcast del mondo. Quando poi, volete. Quando volete. Cioè, ormai siamo arrivati, penso, più di 100 puntate. Una sì. roba proprio. Vabbè, vabbè. Peggio di Beautiful che parlavamo la volta scorsa. Vero. E tra le cose scabrose devo dire che poco fa mi ha chiamato un mio collega per chiedermi, visto che sono calabrese, come si sistema l'anduia nel... Potrei chiedere anche a mio amico Mimmo che ci segue, che anche lui è calabrese. Anche lui è calabrese, anche lui è calabrese. Come si sistema l'anduia dove? Quando una volta che è aperta, come viene conservata, cioè come avviene il processo di conservazione. Digli che l'anduia non si conserva. Bravo, perché si finisce subito. Bravo. Che ca... E era poi lì. Il giorno dopo in bagno sono azzi tuoi. Vabbè. Pomata. Vabbè, io direi che la preparazione H ce l'abbiamo. La preparazione H un po' ogni... come scusami, ma... scusami. Vai. Un po' come la pomata che devono prendere gli interisti, uguale. Scaramucce. Sì, ma non ascoltare che... No, noi siamo un programma free politics e free calcios. Quindi direi che è poco sodio. E molte cazzate adesso, direi anche. Vabbè, dai, continuiamo con un po' di musica e sempre. Andiamo con il brano di Alectronic e Gabriel Vittel. Sembra che lo fanno apposta. Dopo un filet ci sta un Vittel. Il brano è Walk Myself, che chiedo al traduttore istantaneo Tony di tradurre. Cammino come stesso. Bravissimo. Andiamo a ascoltarcelo. We'll be right back. just cause I walk myself, I walk myself, oh, too far. And it's just cause I walk myself, I walk myself, too far. And it's just cause I walk myself, I walk myself, too far. Entriamo sempre con le risate. From disco to disco. È vero, mi ricordava questa. Beh, ve l'ho detto, stasera facevamo la prima parte un po' così, la seconda ci ripigliamo un attimino. Sai che quella canzone lì, From disco to disco, è stata registrata mentre questo sì, qui sì, alle 3 di notte è andato in studio ubriaco marcio. E la canzone è stata registrata da lui che era ubriaco fuori come un melone. Sì, è vero. Non so se ve la ricordate. Potrebbe From essere disco? Un'idea. Ma guarda, io suono da ubriaco, quindi... Tu volevi dire qualcosa? No, ti vedevo preso, non capivo. No, beh, io sinceramente From disco to disco mi riferivo... Sì, lo sappiamo che è il tuo pezzo preferito. No, no, come no? No, fa cagare. No, no, chi vuole ascoltare il podcast della puntata precedente, io la crei all'inizio della puntata, ridiamo, sembra che è l'inizio della canzone From disco to disco. Ah. Se tu senti il podcast e se vuoi riascoltarlo... Attenzione. Allora, no, io invece ho un messaggio di, diciamo, informazione. Sempre allora, sull'Anduja? No, no, no. Mi interessava questa cosa. No, sul discorso che stavamo facendo prima. Sai che avevamo parlato del pezzo Black Chicken, giusto? Esiste un pollo nero? Ecco, no, è proprio il sondaggio che c'è su Instagram. Cioè, magari qualcuno sa se esiste davvero sto pollo. Prima voi che siete andati a fumare, come al solito, e abbiamo passato un brano che si chiama Black Chicken. Allora ci siamo domandati, ma... Questo pollo nero è un'invenzione nero, del gruppo o in realtà esiste? Tony diceva che secondo lui poteva esistere un pollo. Secondo me potrebbe esistere. Cioè la qualità pollo nero, non il fatto che ci sia un pollo nero. Leone bianco, vuoi che non ci sia un pollo nero? Cioè, leone sì, bianco dai, era un anime, nel senso... No, il leone bianco esiste veramente. Era un anima da limone. Non so. Raro. Ah, perché era raro, sarà... Sì, è raro, come anche il... Non mi ricordo se è la tigre, un altro animale, sempre un felino bianco. Ma perché sono albini, immagino. Bravo, ah, perché sono albini, ok. Secondo me c'è anche il pollo nero. Tony, ricordami di preparare la base di Super Quark. Cioè, il mondo è così vario che c'è di tutto. Vario o variato? Variabile, sereno variabile, mettiamola così. Vabbè, quindi se volete risponderci se esiste secondo voi o meno il Black Chicken, che sembra un po' tipo il Black Friday, anche il Black Angus, cioè ecco, il Black Angus, andate sulla pagina nostra di Instagram di Wolf Trips, ci sarà il sondaggio apposito. E Tony già dice, cioè, no, non fare no, lo spoiler. Tony già schiacciando sul sondaggio. Sì, esiste, sta barando. Infatti. 7 risposte sono tutte sue. Su allora, 7. Continuiamo sempre con questo andazzo musicale, direi. Dimmi. È il mio di sondaggio, scusa. Bisogna inserirlo su Instagram. Qualcuno lo inserirà. Ma inserisca su Instagram la mia richiesta. Ma è meno grazie, appetibile per il pubblico. Bravissimo. Cioè, dobbiamo agire in modo tale. Ma quella che c'ha fame, qua sono io. Che... Ah, ma il tuo sondaggio sulla fame, giusto? Attenzione, abbiamo un responso. Attenzione. No. Ce lo teniamo per dopo. Ce lo teniamo per dopo. Sì, no, io ho già la risposta. Anzi, vai a rispondere su Instagram. Hai voglia prima che riesco a capire come funziona. Allora, io direi che sono le 8:53. Tutto va bene, quindi ancora un'oretta di tempo ce l'hai per rispondere. Andiamo a ascoltare il prossimo brano e ci spostiamo sul genere un po' più techno. Etichetta Digital Diamonds. Il brano è di Floating Machine con Multiverse, che sembra un po', non so se hai mai visto, è quando uno fa più versacci, esatto. A parte, oppure potrebbe essere tipo il, non so se hai mai visto la serie di Flash. No, Flash mi manca. Spalava proprio ci di credo multi. Che non lo vedi. Thank you. in you. Stiamo facendo un giro a Berlino, esattamente a Münster, chissà che cosa sarà poi. Münster. Perché è scritto con la... Siamo anche per l'Oktoberfest? Sì, giustamente. Va bene, dai, abbiamo fatto un po' di pausa, ci siamo ripresi, adesso stiamo ascoltando questo brano di One Dub Connection, Coasting. un brano direi molto più deep, molto sì, più sì un po' più da club, dai, ci siamo spostati esattamente da club. Oh, tu Fabio ti vedevo stavo dicendo una mia solita fregnaccia, quindi potevamo anche bypassarla. Giusto. È bella al momento, poi dopo è scontata. Intanto qua si perde il valore. Intanto qua si, come si dice, si susseguono le informazioni su questo Black. Esatto, perché in realtà c'è una sorta di ballottaggio, perché dal mio Instagram sembra che il 100% delle persone abbia votato di no. Che non esiste un Black Chicken. Ma dal tuo, Domenico? Sì, sono dati contrastanti. E io invece ho poi i dati definitivi. Perché il l'ago della bilancia è Tony come al solito. Tony Manero, perché Black Chicken. Wiki Tony. Ma hai dato il 15 ottobre più bilancia di me, cazzo. Comunque sei Tony Manero in questo caso. È vero. Attenzione, questa come arriva, il pollo, dopo, arriva dopo. Come il pollo. Bravo. Arriva dopo, ma quando arriva proprio non ti passa più. Va bene. Ma quindi siamo curiosi, questa cosa della bilancia che cosa ci dice? No, che niente, aspettiamo, facciamo un po' di suspense, attendiamo un attimino, sono ancora le 9.05 qui a Wolf Trips, aspetta un attimino. Quindi dai, ragazzi, fino alle 10-2 non ve lo diciamo. Chi se ne frega della musica, diciamo. Sì, no, infatti uno aspetta solo questa cosa qua del... Del pollo, bravo. E faremo una bella figura di pollo. No, tra l'altro, no, chi se ne frega della musica è una citazione di un brano di... Sì, giustamente, di Caparezza. Esatto. Anche Mamma un bellissimo mia, album. Che qua c'è la cultura, attenzione, ragazzi. Adesso poi parte la sigla, quella di Super Quark. Per la seconda volta, tra l'altro. Momento cultura. Devo prepararmela una sigletta di Super Quark. Bravo. Va bene, andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che è estratto da un album che si chiama The People of Republic of Omeak. No, il titolo del brano è Burning Up di Deep Electrics. Ma che cos'è? Il titolo di un libro? Infatti, sembra... No, allora, ci abbiamo adesso in sottofondo. In realtà è un'etichetta che si chiama del Omeak, che non mi ricordo benissimo dov'è, mi sembra della Colombia, ma vado a cercare, a informarmi. E ogni tanto fanno queste sorta di collezioni di musica che hanno pubblicato negli anni scorsi. Questo è un brano collezione del 2018. Ah, dunque sono ancora qui. Sì. Ci stiamo affidando ai potenti mezzi della tecnica e della scienza per capire da dove viene questa etichetta. Se non ricordo male, dalla Colombia. No, non ricordi male. Non ricordo male, hai visto. Ogni tanto la mente non fa brutti scherzi. Sì, io in realtà, adesso vedendo il titolo, a parte Burning Up, c'è un Austin Tribal Percussion Dub. Sì, mi aspettavo una cosa un po' più tamburosa, invece è stata una cosa un po' più... Ma, come diceva Tony, ci sono tanti strumenti sotto, cioè non... Sì, ce ne siano molti. Cioè... Diciamo che è molto più funky, ecco. Esatto. Avendo visto la parola percussioni, mi immaginavo una cosa un po' più, non dico reggaeggiante, però... E invece sembra più da Rio de Janeiro. È vero. Beh, sempre lì America Latina. Vabbè, diciamo che i brasiliani non è che ci tengono molto a essere chiamati latini, perché loro già parlano il portoghese rispetto a tutto. Sono i diversi della... Sì. Quando ci andiamo a Rio? Sento già la saudade. Andiamo di gennaio. Perché? Ma fai bene, perché la fa caldo. Rio de Janeiro vuol dire fiume di gennaio. Quando è stato scoperto? Staccategli il microfono. Un po' di cultura. Ragazzi, questo è un pozzo di scienza. Ma. Intanto il microfono è stato orientato di 45 gradi e anche verso destra e verso basso. È stata eliminata la possibilità di parola, ecco, mettiamola così. No, vabbè, scherzo, dai Tony, puoi tornare a parlare. Ti riabilito al... Ritorno a gennaio. Ecco. Diciamola a tutti. Tony Angela è il fratello segreto di... di Alberto Angela. Questa era bella, questa devo dire la verità. La famiglia è un po' allargata, ecco. Vabbè, io direi che ci ascoltiamo un altro po' di musica, sempre proveniente da questa bellissima etichetta Omeac. Che vabbè, quindi Colombia, accertato, giusto? Sembra di sì, no? Sembrerebbe di sì. Vediamo se allora, anche i polli. Mi viene difficile un po' da intervistarli, devo dire la verità. Perché non... Per il fuso orario, soprattutto. Magari un pochino di spagnolo. Come fai? Poi ci aggiungi l'S in fondo alle parole. Ciao, ragazzi. Despacito. Allora, andiamo a del prossimo brano che è di Randy Hobbs con Who Are You? Google Translate. Chi sei tu? Bravissimo. Che succede? È partita la pista. Sì, no, è perché quando uno fa mille cose e allora succedono anche queste cose, però alla fine della fiera poi si recupera. Wolf Trips, i viaggi del lupo. Preparatevi per un'ora di musica underground, solo su Radio Lupo Solitario. Eravamo presi bene oggi. Eravamo troppo presi bene oggi, mi sa. Sì, volevamo fare una bella fotografia, ma la scatteremo più tardi. Per certo, forza. Certo. No. Sì, ma non volevamo mettere dentro anche te, solamente io. Ah, ok, allora sono sì, contento. Intanto no. Abbiamo ascoltato perché il brano. Sono troppo fotogenico, dillo. Chiaro, poi oscuri il nostro viso con la tua luce. Intanto potremmo sempre vedere le nostre facce su Facebook, non so se conviene perché abbiamo delle facce bellissime. No, poi dicono che hanno bloccato il canale come sono entrato. Perché sei a Venezia, no? Il canale grande hanno bloccato. Bravo. Non ci passa lui. No, perché poi perdere cosa ho capito, va. Ecco. Comunque, se andate su Facebook potete vedere Fabio che balla, perché solitamente abbiamo visto negli ultimi 3-4 pezzi stava perché proprio ballando. Sono ballerino. E quindi non so se vi piace, vabbè, attenzione perché intanto la chiave è partita completamente in un delirium. Non si sa che cosa sta succedendo. Probabilmente però non lo vogliamo sapere. Ma io non ho detto nulla. Comunque io devo ho il dovere di disannunciare il pezzo precedente, che è sempre dell'etichetta Omeak, e il brano era di Mr. Ustin Venus. Che Ustin non so che cosa voglia dire, però vabbè. Andiamo avanti. Non è con quello del film Ustin Powers. Ustin Powers, bravissimo. Cambiamo etichetta, ci spostiamo ancora in Germania. E è la solita etichetta che piace a voi. Dresda. L'etichetta di Dresda. Wüster. E si chiama Brook. Kartoffeln. Kartoffeln, Braven. L'etichetta è Brook. Lui dice Brook. C'è qualcuno che ha il telefono. Vabbè, dai. Lui è morto, ragazzi, quindi Fabio, non mi chiamate donne. Fabio, a proposito di figure di merda, una volta è venuta a casa mia una tedesca. Ya? Yeah. Gli faccio da mangiare Kartoffeln. Non sapevo dire la parola Kartoffeln. Lessen, però. Lessen, bravissimo. Lessen one. Mi guarda. Mi fa, no, voglio la bistecca. Va bene. Continuiamo. Stavo dicendo, questa è l'etichetta Brook. Non vi dice niente, la solita etichetta Brook. Bravissimo. E l'artista si chiama Granny Lab. Il brano è Illegal System. Una roba strana. Andiamo a ascoltarcelo. Il genere non è dato sapere. quindi ce l'ho. ND. Brano del 2017, boh, un'etichetta un po' particolare, produce sempre musica, diciamo, tra un misto tra l'house e altro, deep house, robe un po' più da club. Visto che stasera abbiamo preso questo andazzo qui, direi di continuare così. Andiamo ad ascoltare e poi ritorniamo subito dopo. Yeah! Intanto prima stavamo parlando di Kartoffeln e giustamente un mio caro amico che mi ha salutato prima, Alessandro De Benedictis, che risaluto. Ciao Alessandro. Che tra l'altro forse una volta magari lo chiamo così ce lo dice lui, visto che è esperto di ma tedesco. Scusami, non lo possiamo invitare? No, è di Sesto San Giovanni, non so se riesce ad essere. Vabbè, via comunque, fono possiamo raggiungerlo. E via fono velocemente, mi scrive Kartoffeln o Kartoffeln. Kartoffeln. Ma cazzo si dice? Vabbè. Voglio che, ma via fono dove si trova? Via Fono? Detto lui. Via Fono è vicino in Piazza La Bomba. Ah, vicino. Angolo via Cornetta. Bravi. Ah, vicino alla SIP, ho capito. Ma te le studi la notte? Cioè, no, fai? Essere pirla è naturale. Non riesco a... un giorno, cosa mi è successo? Eravamo in giro in centro. Con una tedesca? No, eravamo in giro in centro e questi vengono, si avvicinano a me e mi chiedono: ah, dov'è il Barabba in Piazza dei Buffoni? Ah, io gli faccio: ma che cosa vuoi da me, buffona, ci sarai tu, che cazzo vuoi? In realtà esiste veramente, io l'ho fanculizzata. La tua delicatezza è famosa in tutto il mondo. Effettivamente c'era probabilmente il Barabba. Sì, Barabba in Piazza dei Buffoni. Sembra una barzelletta, ma in realtà è la realtà. All true. Va bene, Fabio, lo vedo già pronto per una bella pausetta, o pausini, come sì, dir no, si vuole. Pausini. Così, Tony. E tie break. Infatti facciamo subito una bella pausa e ricontinuiamo dopo con un po' di musica, dai. Ci rilassiamo un attimino perché dobbiamo prendere aria, che qua dentro si muore. Mamma. A dopo. Wall Street. Un viaggio alla ricerca della musica del futuro. วอสตรีทโอ้ยลานอมลาเสียงพินตรวจจาเจ้ามายังจกผงจิกกัวเฮาสุมหัวมาเบิ่งพินอยู่ถึงหานพร้อมเสิ้นเจ้ามาแดนเสิ้น con say lai chao leo nhau meng phu lai do muan phon ma yo yon hai muan man sawan tha yu bo kai say nga Chiarola, ragazzi. Che bella, bella veramente. The Bumblebee Dart, questo, bello sì. Come nome. Abbiamo passato 3-4 generi, credo, sì, sì, in una sì, sola sì. canzone. Siamo passati praticamente dalla musica etnica alla musica da dubstep, io ho riconosciuto un po' di roba cassa quattro quarti, un po' di chitarrino. Ma ci stanno questi mix qua, secondo me, sono molto interessanti. Questa l'etichetta è Subbass, fa questa collezione di musica ogni anno più o meno. Loro la chiamano Ethno Step, però che vuol dire tutto, non vuol dire niente. Come tutti questi neologismi qua un po' strani. L'etichetta è il proprietario di queste canzoni, cioè non è che prende pesca così, secondo te? No, sono canzoni che hanno pubblicato sull'etichetta Subbass. Sì, la compilation dell'etichetta. No, ma ci sono molte etichette che fanno questo tipo di raccolta. Pensavo che avessero raccolto da altre fonti. No. Ci sono anche queste raccolte da altre fonti, ma è quel giorno della, ti ricordi che parlavamo della Net Label Day, no? Sì. Che è un giorno particolare, non mi ricordo quando, in cui praticamente si propongono tutte le canzoni che sono su tutte le varie etichette. Sì, un campionario. Una sorta di festa delle Net Label, mettiamola così. Va bene, dai, intanto che... Bella sta sigletta sotto. Questa è molto da nerd angle. Corner. Beh, angolo, corner. Dai, ricordiamo, no, al mercoledì. Mercoledì 19:20 da novembre, dai. Io dico il 7, però magari... Ma il programma si chiama? Nerd Corner. Oh, perfetto, sì. L'angolo del nerd. Sì, ma poi tra l'altro, beh, le basi che avrò io sono tutte tratte da videogiochi o... Tutto ricercato. Molto bella come cosa. Anzi, ci sarà una intro, piccolo spoiler, che racchiude un po' un sacco di videogiochi anni 80. Anni 90, sono magari 3 millisecondi che vanno a pescare. Sì, è un mix up che ancora nessuno mi è riuscito a dire tutti i videogiochi che sono presenti in quel piccolo jingle che si sentirà. E tu a riascoltarli riusciresti a riconoscerli tutti? Assolutamente no, perché quella base lì non l'ho fatta al 100% io, quindi ok. E va quindi bene. Sì, non sarebbe adesso un po' un problema. Volevo invece introdurvi il discorso su un'altra etichetta che mi piace molto e che cercherò poi di contattare. Loro sono di Torino, esattamente di Cuneo. No, è anche sì, sia Cuneo che Torino. Sì, sì. E si chiamano Edison Box e praticamente hanno fatto producono questi brani rock indie rock. Però anche loro hanno la cultura, effettivamente scrivono proprio una bellissima frase, supportano la cultura del copyleft, ossia della, tra virgolette, copia gratuita, sì, mettiamola così. Andiamo ad ascoltare quindi questo brano che è esattamente di Super Invaders con Interstellar Drug. Intanto li salutiamo perché ci stanno ascoltando. Ci stanno ascoltando, Interstellar Drug Dealing Problem. Andiamo ad ascoltarlo e poi dopo vedremo di contattarli in qualche modo. Thank you. Bentornati, scusa, ti ho anticipato. Sì, sì, no, no, va bene, fatto bene. Stanno ritornando i fumatori. Sì, i fumatori incalliti stanno tornando. Diciamo che manca la nebbia, loro ci rimettono del loro. Ci pensano loro, ci pensano loro. E poi, tra l'altro, visto che qualcuno stava già prendendo il mio posto, No, non è vero, non è vero. È un attimo qua, Qua Wolf Trips è come il gioco delle sedie, appena si ferma la musica. Comunque, il brano è di... Ah, dimmi. Stavi dicendo... Se c'è un po' di nebbia, possiamo installare dei buoni antinebbia. Con dei bei fari, magari qualcosa del genere. Perché? Delle teste rotanti antinebbia. Ma eri lì, esatto. Ma ero sulla nave una volta. O magari perché? Una bella laser machine, visto che c'è la nebbia, fa effetti strani. Ah, vabbè, ok. Ma poi comunque, ho paura che via webcam non si vedrebbe una mazza. Comunque, per una persona che ci chiede il titolo, almeno rispondiamogli. Come si chiama? Ecco, vedi. Ciao, Tigre. Lo sapevo io che tu non eri attenta. Il brano è Super Invaders... E credo che sia Dealing Problem. Interstellar Drug Dealing Problem. Interstellar Drug Dealing Problem è un brano, dicevamo, di questa etichetta Edison Box con cui sono in contatto. Mi raccomando, per essere precisi, tra drug e dealing c'è il trattino. C'è il meno, o il meno, che dir si voglia. Se poi metti che non trova la canzone giusta, non siamo precisi. Ma che vista hai, ragazzo? Va bene. Intanto... Da pollo nero, c'ho la vista da pollo nero. Ecco, devo farvi un aggiornamento, giusto? Esattamente, sì, perché durante la pausa, la canzone, abbiamo guardato un po' l'aggiornamento del sondaggio su Instagram e siamo esattamente 50-50. Come quindi prima noi abbiamo l'ago della bilancia. Super Tony. Ma ancora è ancora presto, ancora verso la sono fine. Le 21:41. Direi che ci andiamo ad ascoltare un altro brano estratto dall'etichetta Kamizdat. Che questa dov'è? È nuova, dai. Mi cogli preparato. Mi sembra qualcosa che dovrò dire dopo. No, il brano è estratto da un album che si chiama Techno Burlesque. Adesso non vi so dire. E loro sono Fabio, i The Feminals col brano Plastic Elastic. Da dove arrivano? Bello. Non ho altre informazioni, però francesi. Vado... Fanno francesi, infatti. Burlesque. Maledetti francesi. Francesi. Flexible, elastic is my ass, so fantastic. Intanto ne abbiamo persa un'altra oggi, no? È ancora sì. viva? No, no, l'abbiamo persa. L'abbiamo persa. Già 5 minuti fa. Solo. Vabbè, lei entra sempre così ridendo, vabbè. No, vabbè, bisogna vedere anche il fuori onda. No, vabbè, una bella cosa, scusa. Beh, fuori onda diciamo che li si possono vedere su Facebook, giusto? Sì, sì. Va bene, va bene. Tra l'altro adesso mi stavo spiegando i sottotitoli in tedesco. In tedesco, giustamente. Kartoffel. Kartoffel. Intanto volevo salutare, visto che c'ha scritto anche sulla chat di Facebook, il mio caro amico Pulvirenti Alessandro. Ah, lo salutiamo, ciao. Che è il ciao, mangiatore di Induja. È buono, occhio intenditore. A sedere domani, Intenditore. È anche interista, no? No. Ah, dai, sta cosa, mettevi gli interisti dappertutto. Eccolo. Va bene. Lui si vede, sì, questo è vero. Comunque, ho a che fare tutti i giorni con interisti, quindi. Ecco. Comunque, a grande richiesta. Ritorna la mezza tonica. Eccolo. Bravo! Però ci vuole la sigla per la mezza tonica. Eravamo troppo. No, è vero. Io metterei tipo quando apri una bottiglia. Già, Schweppes. Però è vero, a parte la sigla, potevi portare quello da bere. Angolo, vabbè. No, io potrò... c'ho fame. Va bene. Io aspetto Fabio. Vabbè, porterò allora, la pizza prima o poi. I kartoffeln. Allora, visto che abbiamo detto della mezza tonica, allora presenta il brano, dai, già che ci siamo. Questi lunghissimi minuti di brano. 9 minuti. No, beh, stringiamo. Quanto? 9 minuti. Quasi. Sono già in pensione tra 9 minuti. Sì, se tu ci credi, alla pensione. Tony, Mess, allora, Mise, un pezzo. È un gruppo italiano che produce musica, diciamo, balearica, ecco. Ok. Che è mista di house, un po' house, queste... con questi suoni un house. House. È tutto house. No, sono un po' emozionato perché sono ritornato un po' indietro nel tempo. Il gruppo si chiama Almunia. Pensavo house. Almunia. Okay. Sono di Rimi, se non sbaglio. La canzone si chiama Mini on the Time. È il remix di un DJ famoso a Ibiza, un DJ storico, si chiama Coyote. Insieme a Leo Mas, altri DJ. Sì, Fabio, lo so cosa volevi dire. No? Dica. Voleva dire dove ha lasciato Willy. Bravo, è parente di Willy. Willy lo sta ancora cercando. Va bene. Dai. Ma nell'ultima puntata l'ha trovato, eh? Sì. Io ho visto l'ultima puntata, l'ha trovato, però vabbè, andatevela a vedere perché è molto figa l'ultima puntata. Va bene, dai, andiamo ad ascoltare quindi... Un estratto piccolo di questa canzone. Andiamo ad ascoltare Almunia con Meaning of Time, Coyote, Sunset Meat e poi sicuramente daremo il risultato del nostro splendido sondaggio. Upon a piaciuta? Sì, sì, sì, bella, sì, sì. Diciamo che da fine serata. Infatti siamo arrivati, ormai ma manca poco. Io, scusate, dimmi. Dato che abbiamo ascoltato la musica house. Sì, sì, sì, sì. Stavo parlando prima con Wiki Tony e volevo che raccontava a tutti quanti quello di cui abbiamo parlato, ma è molto interessante perché io per anni mi sono sempre chiesto perché si chiama house e da ignorante becero non ho mai capito il perché, ma lui lo sa. Quindi io darei questa piccola chicca verso l'uscita prima del pollo nero. Quindi diciamo che lo chiameremo Papà Castoni. Aia, aia. Cioè, no, il nome deriva dal locale dove suonava il DJ. Non so, non mi ricordo se era Frankie Dove suonavi il DJ? No, dove suonava un DJ storico. No. No, no, è giusto, è giusto. Dove suonava il DJ storico? Allora, non mi ricordo che si chiamava Garage House o Wall House. E house era, diciamo, per definire quel genere musicale di quel locale. Cioè ha preso, diciamo, sì, lo stile dal nome del locale. Che poi house anche per musica fatta in casa. Cioè, ma tanti generi prendono il nome dal... Io mi ricordo che adesso, quando ribeccherò questo mio amico, che era più grande di me ai tempi, io ero un boccia. Adesso no. Ma adesso non lo vedo spesso. Gli dicevo sempre, ma perché si chiama house? Lui mi diceva, quando diventi grande te lo dirò con questo modo altezzoso. Ma te l'ha mai detto? No. E adesso sapevo. Grazie a Tony sono diventato grande. Ma difatti anche la trance l'ha fatta la prima volta uno con entrambi gli organi genitali, quindi per quello che si chiama così. Scusate, intrometto vai, anch'io vai. Da metallaro che non c'entra niente con questa trasmissione. Anche il metal sì? Si chiama metal perché era suonato da Fabri all'inizio. Davvero? Certo. Fabri no. DJ? E ci crede pure, questa è la cosa incredibile. Ci credete pure, non è vero, non è vero. Che tristezza, io ci credevo, era ma una no, cosa, era cosa bella. Un ma era mito, bellissimo. Io vedevo cioè... l'operaio col martello che faceva vero. Tipo la batteria dei Metallica in Sant'Anger. Non so se hai presente quel suono figo che bam bam. Poi le registravano e si mettevano lì tutti insieme. Va bene, dai. Direi che andiamo. Con la salopetta, eh. Andiamo verso la fine della giornata. A me sono le 21.53. Io direi, ascoltiamoci il prossimo brano e poi. E poi andiamo a verificare il pollo nero. Il pollo nero, The Black Sei Chicken. Yeah man, I was trying to pull a message in the music as the things say. The great things in the name of him are his imperial majesty. We no like a bad man, and we no like corruption. No bold that temptation, and no bold all the evil plan. And me I repeat again, me think that the people can live together as one. See the sun is shining, you know, my universal message. The rest of man I tell you, alright. We no like a bad man, and we no like corruption. No bold that temptation, and no bold all the evil plan. And me I repeat again. One blood, and we got to live by identity. My love is pure now for sure. One oath, and we got to live by identity. My love is pure, all I know. One love, and we got to live in unity. Remember that no bed is gold. One love, and we got to live in unity. All I know we know for sure. But you can't joke with a life. You must understand that me and you the woman. All I know. And you can't put down the stable. A place one of God. A Rastaman's a culture in a bad things. I give him praise for our little children, Jason and Jason. it out. Wall Street. I viaggi del lupo. E siamo arrivati al momento dunque, ragazzi. Tan, tan, tan, dopo tan, ben due tan. Ore di musica siamo arrivati. Ma prima di svelare telefono. Il segreto, vorrei tornare sul sondaggio, fare un piccolo check. Dimmi allora, a che punto allora, siamo. Fino a 5 minuti fa il sondaggio era in parità assoluta, precisa, 50 e 50. Faccio un check in questo preciso momento, quindi i tempi tecnici dovrebbero essere abbastanza brevi, e il sondaggio dice che il 50-50 è ancora okay, quello che vince. A questo punto sveleremo l'ago della bilancia. Grazie al nostro Wikitoni, che ha fatto una grandissima ricerca anche tramite National Geographic. Ha fatto... Attenzione però, cioè, mi dicono che c'è un broglio elettorale, perché il mio Instagram deve essere un po' buggato, ma nell'Instagram ufficiale il 60% ha vinto il sì. Però il prima, sì. Prima di lanciare, diciamo, la... come dire, la... La rubrica di Wikitoni. Di Wikitoni ci vuole assolutamente la base giusta per poi dopo dire, decretare il risultato. Esattamente. Bravissimo. Vai. Vai. Okay, ci siamo. Vai. È il tuo momento, Tony, vai. Chi ha visto il video ha visto la scena che ho fatto, che è bellissima. Svelacelo. Secondo fonti, diciamo, il pollo nero è una razza che comunque arriva un po' da tutte le parti del mondo, soprattutto dall'Indonesia, Cina, quella zona lì, però può essere anche una razza europea. Quindi esiste. Non è niente di particolare. Esiste, cacchio. Ed è anche un pollo comune. Sì, assolutamente. Cosa avevo detto all'inizio? C'è il leone bianco, ma non c'è il pollo nero. Vabbè, togliamo la basetta questa di Tony, che la riserveremo per altri momenti. Vabbè, interessanti. Via la basetta, Tony. Siamo arrivati agli sgoccioli. Possiamo fare anche i saluti sull'ultimo pezzo? No, invece no. Siamo già arrivati alle 10, quindi nulla. Salutiamo e ci vediamo. Niente pezzo. Croc dice basta. Basta, ce ne andiamo a casa. Adios, come direbbe qualcuno. No, vabbè, facciamo i saluti un po' seriamente, dai. Allora, salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto su Facebook, Instagram, bla bla e bli bli e altre robe varie che non sto adesso a narrare. E WhatsApp, mille e danke. Più mille. Danke. E, vabbè, salutiamoci noi, dai. Salutiamo la Cri, salutiamo Fabio, ciao. Salutiamo ciao. Tony, salutiamo... Vai. Ciao. No. Salutiamo ciao. Ciao, detto Gianni Morandi, ciao. Poi salutiamo i nostri ospiti in studio, perché ormai abbiamo proprio il pubblico. Un infatti per la prossima settimana chi vuole c'è venire come pubblico deve a pagamento fare... info no, oppure portare da mangiare, va bene anche così. Portare da mangiare, ecco. Non mangiare le robe degli altri. Vabbè, abbiamo la Debora, abbiamo Diegone, che è un grande ritorno. Il tuo programma è già iniziato? Sì, okay. al giovedì. Giovedì dalle 20 alle 21. Perfetto. E poi salutiamo Virtual Demon Crash DJ che inizierà anche lui a fare un po' di collaborazioni con Wolf Trips molto a breve. Ok, basta, direi che ci siamo salutati tutti. No. Chi è che manca? Ciao Domenico. Ma perché aspettavo il solito sketch di Fabio e Domingo, no? Vai. No, ormai è stato bruciato. Ormai è stato bruciato. Alla prossima, ragazzi. Alla prossima, dai. Va bene, dai. Ci salutiamo, ci sentiamo settimana prossima. E faremo il primo mese. Il primo mese? Mischia di già. Oh, il mese anniversario! Mi sento già tutto eccitato! C'è il capezzolo di torcide! Vabbè, io direi si accoppierà con un pollo nero. No, pensavo con Tony. Vabbè, io direi che stacchiamo anche il video e ci sentiamo settimana prossima. Ciao.